Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, Europa 24 oggi parte dal confine orientale, dove tra Europa, tra Unione Europea e Russia c'è tensione, tiene infatti banco ancora il caso Ucraina, ma anche il dispiegamento dei missili Iskander schierati a Kaliningrad. Il servizio. Allarme sul fronte occidentale dall'Europa fino agli Stati Uniti passando per la NATO dopo che Mosca ha ammesso di aver schierato missili vicino alla frontiera europea, anzi geograficamente all'interno dell'Europa, secondo più fonti, per la precisione nell'enclave di Kaliningrad. Ufficialmente il tema non sarebbe stato in agenda ieri durante il pranzo dei 28 ministri degli esteri europei con il collega russo Sergei Lavrov in preparazione del vertice tra Mosca e Bruxelles di gennaio, ma la notizia ha creato non poche turbolenze nella capitale comunitaria. Sul tema si è espressa la NATO con un duro giudizio: il dispiegamento dei missili russi non contribuisce alla sicurezza euroatlantica e non manterrebbe lo spirito di cooperazione su cui NATO e Russia hanno lavorato. Più in generale, questo è motivo di preoccupazione per l'alleanza atlantica. Nessun passo avanti intanto sulla questione ucraina. La porta dell'Europa resta aperta per Kiev, ma il presidente Yanukovych non la varca, così il ministro degli esteri Bonino, presente al summit, conferma l'alto rappresentante europeo Katie Ashton. L'Europa ha reso perfettamente chiaro che l'Ucraina dovrebbe firmare l'accordo di partnership con Bruxelles. Questo non danneggerebbe la Russia in alcun modo. Sul fronte del nucleare iraniano, infine, i 28 ministri degli esteri si sono detti disponibili a sospendere alcune sanzioni contro il regime di Teheran non appena sarà verificata la piena implementazione degli accordi presi a Ginevra lo scorso 24 novembre. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi restiamo a Kiev, dove questa mattina un gruppo di manifestanti pro-UE si è dato appuntamento sulla strada che porta all'aeroporto Boryspil per mandare un messaggio al presidente ucraino Viktor Yanukovych poco prima della sua partenza per Mosca, dove tra circa mezz'ora dovrà incontrare Putin. Su questo tema e su questa contesa abbiamo sentito Amanda Paul, policy analyst dello European Policy Center. Well, first of all, I wouldn't say that the EU... Credo che la colpa per cui le cose siano andate in un certo modo vada non tanto cercata nell'Europa ma nel modo in cui ha gestito la cosa lo stesso presidente Yanukovych, che ha preso una decisione antidemocratica contro l'interesse dell'Ucraina senza consultarsi con alcuna parte della società e ha deciso da un giorno all'altro di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea. Certo, per contro, l'Unione Europea si è avvicinata al processo negoziale in modo troppo tecnico, non ha considerato, anzi ha sempre evitato di affrontare i reali elementi strategici di questi negoziati. Ad esempio, i benefici di questo accordo sono tutti a medio e lungo termine. In mezzo c'è un bel po' di riforme dolorose che devono essere fatte. La liberalizzazione dei visti è un beneficio a breve termine, però non bisogna dimenticare che la Russia offre già diversi benefici a breve termine, anche se sono benefici che hanno, per usare una metafora, un prezzo da pagare sul lungo termine molto alto, perché qualsiasi accordo faccia la Russia con l'Ucraina, i vantaggi saranno sempre per i russi nel lungo periodo. Continuando l'analisi, c'è poi la questione di come è stata percepita questa storia da alcuni paesi europei. Ad esempio, alcuni paesi europei non sono poi così preoccupati per la decisione dell'Ucraina di non firmare. Quei paesi non sono interessati all'avvicinamento dell'Ucraina all'Unione Europea. L'Ucraina è sempre stato un problema che ha creato divisioni all'interno dell'Unione Europea. E poi non c'è stato alcun messaggio, ad esempio, da parte del presidente Hollande in Francia per la scelta di Yanukovych. To the people, the millions of people in Ukraine, to keep holding on, to keep Ukraine tight and do what we can even under difficult circumstances. Amanda Paul, intervistata da Letizia Marcakis con la collaborazione di Cristina Carpinelli. E ora Real Madrid e Barcellona, dunque ci avviciniamo anche noi in temi calcistici, ma non solo, e poi ne parliamo in un'altra chiave. Infatti la Commissione vuole chiarezza intorno allo status di società no profit dei colossi spagnoli del calcio miliardario. L'Unione Europea contro Real Madrid e Barcellona, che rischiano di perdere i privilegi fiscali goduti negli ultimi decenni grazie ai quali hanno potuto dominare il calcio mondiale. Sotto accusa lo status di società no profit dietro cui i due club, insieme ad Athletic Bilbao e Osasuna, hanno beneficiato di forti agevolazioni fiscali. Una norma inserita in una legge spagnola del 1990 consente infatti ai quattro club, di proprietà dei loro soci, di essere registrati come senza scopo di lucro, diversamente da tutte le rivali, che risultano essere invece quello che in Italia sono le società a responsabilità limitata, una distinzione che da un punto di vista fiscale garantisce evidenti i vantaggi sia sulle imposte societarie che sul reddito generato. Gli accertamenti da parte di un ufficio dipendente dalla Commissione europea sono cominciati 4 anni fa a seguito di una protesta da parte di altri club. Sotto la lente di ingrandimento del commissario per la concorrenza Liberico Almunia, anche Valencia, Hercules ed Elche, club che avrebbero ottenuto aiuti pubblici dall'Istituto Valenciano de Finanzas. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roberto Scaltriti in regia, Gigi Donelli al microfono. Europa 24 torna domani, poco dopo le 14. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.